Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. Oggi è il 23 settembre, l'ultima settimana di Italia in controluce, che termina le sue trasmissioni venerdì, e dopo 3 anni di reportage, di diciamo di un approfondimento del giornale radio, che però avrà un seguito, naturalmente mi sentirete nei racconti nel giornale radio più lungo, che andrà in onda dal 30 di settembre su Radio 24 dalle 13 fino alle 14. Dunque oggi è una giornata importante, una giornata non tanto per scrivere ma quanto per ricordare. Per ricordare un uomo, un bravissimo giornalista, che venne ucciso il 23 settembre del 1985 dalla Camorra. Si chiamava Giancarlo Siani. La Camorra uccideva il collaboratore del Mattino di Napoli, che era stato anche, lo ricordo, corrispondente a lungo a Torre Annunziata. E le indagini, le inchieste di Giancarlo Siani erano profonde, erano gli anni successivi al rapimento del allora assessore ai lavori pubblici della Regione Campania, Ciro Cirillo, che era stato rapito dalle Brigate Rosse, poi a cui appunto le BR avevano chiesto alla Camorra di intervenire per la sua liberazione. Lo Stato aveva trattato con la Camorra e con le Brigate Rosse quanti quattrini, quanti soldi vennero dati alle BR e alla Camorra. Ancora oggi non è chiaro. Certo che Siani si era trovato nell'incrocio di tutte queste storie e anche di molte altre storie. Bene, 28 anni dopo la memoria è tornata e ha lasciato tracce. Questa Meari verde, la macchina di Giancarlo Siani, che ha percorso le strade di Napoli fino alla sede del Mattino in via Chiatamone. A questa iniziativa hanno preso parte in molti, dal sindaco De Magistris al governatore Stefano Caldoro, lo scrittore Roberto Saviano, anche al nostro collaboratore, nostro conduttore prossimo, Gianni Minoli, che ha intervistato Carmelo Presti Simone proprio a Napoli. Era presente Minoli alla certamente alla manifestazione in memoria di Giancarlo Siani. Sentiamolo. Giovanni Minoli, maestro di giornalismo qui a Napoli, redazione del Mattino. In una giornata particolare, sono passati 28 anni dalla morte di Giancarlo Siani, il cronista appunto di questo quotidiano ucciso dalla Camorra. Oggi che cos'è la libertà di stampa? Quanto è importante? La libertà di stampa è importante quanto l'aria che respiriamo, è fondamentale. È fondamentale, bisogna conquistarla ogni giorno. E Giancarlo ha dato una lezione in questo senso, perché Giancarlo era un giornalista giornalista, non un giornalista impiegato, e quindi è uno che ha pagato per la voglia di scavare, di essere archeologo della verità in qualche modo. Noi racconteremo a Mix 24 la storia di Giancarlo Siani nelle prossime settimane, e sarà sicuramente un piccolo tributo anche da parte nostra. Giovanni, la stampa oggi è condizionata secondo te? Sì, la stampa è molto condizionata, sono spesso bande contrapposte. Questo non toglie che dentro ci siano giornalisti veri, però la fatica dell'essere giornalista vero in un mondo in cui gli editori puri non esistono, ma esistono solo editori che hanno interessi altri, è molto difficile. Il messaggio che lasciano persone come Giancarlo Siani e altre vittime della mafia, e parlo di giornalisti e ce ne sono tanti, qual è? È un messaggio di speranza, che bisogna lottare sempre fino in fondo. Quando uno ha un ideale, ci crede e va fino in fondo. 349-238-6666, avete sentito Giovanni Minoli, che era presente tra gli altri a questa commemorazione di Giancarlo Siani. Allora, noi torniamo a Napoli, vi ricordo il nostro numero per i vostri sms in memoria di Giancarlo Siani, 349-238-6666. Ancora a Napoli con Carmelo Prestisimone, che ha un altro ospite. Sì, Daniele, Buongiorno, bentrovati da Napoli. Noi abbiamo seguito tutto il percorso, il tragitto della Citroën Meari, l'auto che guidava Giancarlo Siani e dove è stato ucciso il 23 settembre dell'85, sono passati 28 anni. Siamo nella redazione del Mattino e siamo con il vice direttore del Mattino, del giornale dove lavorava Giancarlo Siani, siamo con Federico Monga, a cui chiedo una giornata sicuramente particolare, Federico. Ne parlavamo prima con Minoli nell'intervista che appunto ha rilasciato. La libertà di stampa oggi è più che mai fondamentale, importante. Sì, devo dire che la cosa importante è la lezione che ci ha lasciato Giancarlo Siani. Archeologo vuol dire scavare in profondità. Come adesso, in un momento in cui il giornalismo è diventato usa e getta, soprattutto per merito, ma anche un po' per colpa, permettetemelo di dire, dei nuovi media che tendono poco alla riflessione. La lezione di Giancarlo mi pare importante, è importante per noi giornalisti, vuol dire scavare a fondo, non limitarsi alla semplice notizia, ma cercare di verificarla, di metabolizzarla, di spiegarla. Ecco, Giancarlo, con i suoi reportage, con i suoi articoli che sono stati raccolti dalla fondazione a lui intitolata, che consiglio insomma di leggere, aveva questo passo, un passo che sicuramente alcuni media devono riniziare ad avere per spiegare, per approfondire, per andare a fondo e non limitarsi alla semplice notizia che troppo spesso può essere condizionata da chi la veicola. Se Giancarlo avesse lavorato in un'altra città, sarebbe stato comunque ucciso? Beh, questa è una domanda a cui è difficile rispondere. Ai tempi di Giancarlo la lotta, l'impegno dei giornalisti antimafia non avevano quella copertura mediatica che diventa anche, diciamo, una copertura fisica, perché sappiamo bene che le organizzazioni criminali temono moltissimo gli occhi addosso della criminalità organizzata e quindi un omicidio come quello oggi, per fortuna, probabilmente sarebbe molto, molto più difficile. Certo, in alcune altre regioni ci sono tanti giornalisti che adesso sono a rischio. Oggi qui abbiamo avuto Roberto Saviano, ma mi piace ricordare la nostra collega attualmente prestata alla politica, Rosaria Capacchione, ma mi piace ricordare anche i tanti giornalisti dei piccoli giornali del nord che stanno facendo delle importantissime inchieste in Emilia Romagna, in Lombardia, e che stanno scoprendo una realtà della criminalità organizzata che si è trasferita dalle terre oramai poco fruttuose da un punto di vista economico del sud fino al ricco. Bene, grazie a Carmelo Prestisimone in diretta da Napoli. Siamo in chiusura di questa puntata di Italia in Controluce, la Meari di Giancarlo Siani. C'è chi mi ricorda di ricordare i tanti giornalisti rimasti uccisi dalla mafia e dal terrorismo, da Tobagi a Casalegno e da molti altri. Uno lo ricordo in particolare perché lo conoscevo, che era Peppino Impastato. E un altro ascoltatore ci ricorda che Letta, o chi per lui, comunque i governi, deve togliere il velo sui segreti di Stato di questi ultimi 50 anni, anche per dare davvero una svolta europea. Concordo pienamente con il nostro ascoltatore. C'è chi ricorda Giancarlo Siani con alcune delle sue idee principali, che era, come dice un ascoltatore, un bel esempio di ammirevole coscienza civile che ci scalda il cuore, scrive Luisa. Bene, a domani alla stessa ora, 13:30, Italia in Controluce.